Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica da Valentina Furlanetto, siete ancora sulle frequenze di Radio 24 e anche questa domenica vi raccontiamo la storia di italiani che hanno radici altrove. Fra questi italiani ci sono anche moltissimi rifugiati e richiedenti asilo e noi oggi parliamo di un progetto dedicato a loro, di un logo che è un riconoscimento che viene attribuito dall'Agenzia ONU per i rifugiati UNHCR da qualche anno alle aziende che si sono fatte carico di progetti concreti di sostegno ai rifugiati. Come? Offrendo loro un lavoro, un tirocinio, uno stage, un'assunzione, perché il lavoro è davvero il veicolo più importante per l'integrazione. Attraverso il lavoro queste persone ritrovano dignità, indipendenza mentale, economica, trovano dei colleghi, si introducono di più nella nostra vita quotidiana. L'edizione 2019 di Welcome ha fatto registrare una partecipazione straordinaria. 142 aziende hanno partecipato, il 50% in più rispetto all'edizione dell'anno precedente, del 2018, e moltissime sono state premiate. La maggior parte sono micro imprese e la maggior parte sono nella ristorazione, come Panino Giusto, che è un'azienda di ristorazione milanese che ha partecipato a Welcome vedendosi assegnare questo logo etico dopo che si è inventata un progetto: cucinare per ricominciare. Benvenuta Elena Riva. Grazie Valentina, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Elena Riva è presidente e coproprietaria di Panino Giusto e questo progetto l'ha inventato proprio lei nel 2016 insieme ad AVSI, che è una ONG che si occupa di progetti umanitari. Come vi è venuto in mente? Ma guardi, è stata una scelta quasi naturale, nel senso che in quel periodo la nostra città, dove ha sede anche la nostra azienda Panino Giusto, ha accolto numerosissime persone in fuga dal conflitto in Siria. Ed era impossibile non notare tutta questa gente per strada e insieme ad AFSI ci siamo chiesti cosa potessimo fare noi, attraverso comunque qualcosa di concreto a supporto della nostra comunità, per cercare comunque di dare una mano a tutte queste persone. Noi ci occupiamo di ristorazione, come ha spiegato bene lei, ci è sembrato quindi naturale partire da quello che facciamo tutti i giorni, ovvero formare dei giovani per diventare dei professionisti e poter comunque trovare la loro realizzazione professionale all'interno comunque del settore della ristorazione. La conoscenza poi del progetto Welcome, quindi della possibilità di gareggiare per avere un logo etico. È stato un caso, nel ottobre del 2018 abbiamo ottenuto per il nostro progetto un bel riconoscimento da parte della Fondazione Robert Kennedy Human Rights e in quell'occasione è stato presentato il progetto di UNHCR. Da qui quindi ci è venuta l'idea di provare a partecipare al bando fin dalla loro, penso, prima edizione, quella del 2018. Da che nazionalità, da che paesi provengono per lo più? Abbiamo circa 29 nazionalità diverse all'interno della nostra azienda, quindi questo per noi è sempre stata una grande ricchezza. Quindi il fatto di accogliere queste persone non è stata diciamo uno shock all'interno dell'azienda, è venuto molto naturale, loro si sono integrati molto bene. Quanti dipendenti rifugiati avete in questo momento? Allora, in questo momento noi abbiamo 10 dipendenti che hanno lo status di rifugiati e ognuno di loro ha un contratto stabile presso la nostra azienda. Tutti sono stati inseriti attraverso questo progetto, che prevede comunque un percorso, diciamo, molto lungo e anche molto, secondo me, accurato, perché una delle problematiche principali è proprio l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie. La lingua è la prima barriera che persone comunque provenienti da paesi diversi si trovano a dover affrontare e superare quando giungono nel nostro paese, e per questo il nostro progetto si articola in due fasi. Una prima fase che prevede 5 mesi di formazione in aula, vengono erogati circa 190 ore di formazione tra formazione tecnica con moduli specifici nell'ambito della ristorazione, oltre che un grande accento e importanza viene data ai soft skills. Addirittura negli anni, con molto orgoglio, abbiamo inserito anche un modulo specifico per le protagoniste femminili di questo progetto, con una settimana dedicata a dei corsi legati all'empowerment femminile. Dopo questi 5 mesi c'è invece una parte, diciamo, più pratica, quindi una parte di training on the job presso i vari punti di ristorazione, nella quale i ragazzi possono provare a mettersi all'opera con tutte le competenze e le conoscenze tecniche che hanno acquisito nei 5 mesi precedenti. Al termine di tutto questo percorso, che quindi dura circa 10 mesi, si dimostra di avere le competenze e la predisposizione giusta per lavorare all'interno della ristorazione, viene assunto con un regolare contratto di lavoro. E questo progetto, ci tengo a dirlo, è nato all'interno della nostra azienda, quindi di Panino Giusto, ma poi negli anni abbiamo coinvolto anche altri player del settore, anche i nostri concorrenti, e hanno aderito quasi tutti con moltissimo entusiasmo. Questo ci ha permesso di poter offrire ai 20 beneficiari annuali anche la possibilità poi di poter accedere a posti di lavoro non solo all'interno della nostra azienda, ma anche in tante altre aziende della ristorazione. Lei diceva 10 rifugiati assunti in questo momento, su quanti dipendenti che avete? Ma ad oggi abbiamo circa 300 dipendenti. Purtroppo, come lei ben sa, questo anno è stato un anno veramente molto difficile per il nostro settore. Il primo lockdown e poi anche questo secondo lockdown hanno messo comunque veramente in ginocchio tutto il reparto, e per questo quest'anno il nostro progetto è rimasto in stand-by e abbiamo dovuto comunque anche, non abbiamo potuto implementare ulteriormente il progetto come avremmo voluto. Problemi, delle criticità che incontrate più spesso è quello della lingua. Che altre problematiche avete incontrato? Che punti critici ci sono nei problemi di relazione con i colleghi, differenze culturali, problemi anche legati alla burocrazia e permessi di soggiorno? Non so, quali possono essere le criticità per un'azienda nell'assumere un rifugiato? Certo, dal punto di vista della burocrazia devo dirle che la regolarità dei documenti per noi è un prerequisito per accedere a questo nostro programma interno, proprio per comunque cercare di garantire comunque a tutti i partecipanti poi uno sbocco lavorativo, perché ci sono tantissimi progetti di formazione in giro anche a livello regionale o nazionale. Il problema è che poi molti di questi non riescono poi a sfociare in un reale poi contratto di lavoro o in un'assunzione stabile. Secondo noi questa è una parte veramente importante e indispensabile del progetto, perché permette a questi ragazzi comunque di avere un sogno, un orizzonte che poi può concretizzarsi appunto in un posto di lavoro che poi permette loro di rimettersi in moto, no? Permette loro poi di avere una busta paga, quindi poter accedere, uscire magari dai centri di accoglienza, per comunque affittare un appartamento, addirittura Precious sta comprando casa, poter comunque mandare i figli a scuola, insomma è una vita che si rimette in moto. Un'altra problematica che abbiamo riscontrato è a volte la differenza culturale. Non lo so, nel periodo comunque della formazione per noi l'orario è un fattore molto importante, quindi se una lezione inizia alle 10 o inizia alle 9 ci aspettiamo che comunque i partecipanti e le persone comunque arrivino regolarmente. A volte per cultura alcune persone hanno un'idea un po' più flessibile, no? Del tempo e della gestione del tempo, e per noi invece l'orario, la serietà, soprattutto quando comunque vengono coinvolti anche tanti tanti altri partner, tanti altri consulenti, è sinonimo comunque di un rispetto e di un livello di professionalità che oggi è assolutamente indispensabile. Magari in occasione di festività si pensava da parte di alcuni partecipanti di poter magari saltare alcuni moduli formativi, insomma, quindi diciamo la precisione, la puntualità, il fatto comunque di aspettarsi un certo livello di professionalità, di attenzione, sono comunque anche tutte dei soft skills sui quali noi abbiamo lavorato tanto, perché volevamo comunque anche insegnare, vogliamo insegnare ai partecipanti al nostro progetto come funzionano le regole anche del lavoro nel nostro paese, perché sicuramente per potersi integrare è importantissimo anche da parte loro conoscere bene le modalità attraverso le quali noi comunque lavoriamo e operiamo, in modo che comunque anche le loro differenze possano comunque essere comprese e anzi poi possano anche portare un arricchimento, come per noi è stato, perché per noi è... Ecco, volevo proprio chiederle questo: quali sono invece i punti forti di questa esperienza? Quali sono state le cose che l'hanno sorpresa in maniera positivamente? I punti di forza di queste persone anche? Guardi, soprattutto principalmente dal punto di vista umano. Dal punto di vista umano per noi, per la nostra azienda, e non parlo solo di me, ma di tutte le persone che collaborano con me, che hanno avuto la possibilità di comunque lavorare al fianco di queste persone, è una ricchezza straordinaria. E innanzitutto l'entusiasmo che portano, questa voglia di riscatto, questa resilienza straordinaria che hanno per aver comunque superato dei momenti e delle difficoltà terribili, e la voglia che hanno comunque di ripartire, di ricostruire, l'orgoglio anche di potersi rimettere in piedi. Questa è stata... è un effetto, diciamo, contagioso, positivo, che ha coinvolto tutta l'azienda. Ci sono anche ragazzi nei nostri punti vendita che sono venuti da me a ringraziarmi dicendo che comunque hanno riscoperto anche l'orgoglio del loro lavoro. Spesso comunque questi ragazzi arrivano puntualissimi, sono orgogliosissimi del lavoro, cercano di imparare il più possibile, e quindi questo loro entusiasmo, questa loro voglia di fare, di imparare, è comunque una forza molto bella che fa molto bene a tutti. E ci ricorda anche quanto siamo fortunati noi, quanto è importante fare bene ognuno il proprio lavoro, la propria parte. At home, drawing pictures of mountaintops, with him on top, let me know sun, arms raising a beam, the deadly. I contratti che voi fate a queste persone sono contratti di categoria? Sì, certo, sono contratti al pari di tutti gli altri, anzi ci tengo anche a dire che comunque molti di loro stanno crescendo anche professionalmente, sono perfettamente equiparati agli italiani, e il percorso che hanno fatto è un percorso poi di continua crescita e di continua formazione, ma questo non riguarda solamente loro, ma tutte le dipendenti di Pagnino Giusto comunque sono inseriti attraverso un sistema di training continuativo. Grazie. E la formazione comunque non finisce mai. Grazie a lei. Ora ci fermiamo brevemente perché c'è una piccola pausa, ma subito dopo sentiamo proprio una persona di origini straniere, una rifugiata, che è stata una delle beneficiarie nel 2018 di questo progetto, che poi è stato premiato col premio Welcome e che, di cui abbiamo parlato con la nostra Elena Riva. Figli di Enea. Torniamo in studio con voi questo pomeriggio per raccontarvi una storia di integrazione, di lavoro attraverso Welcome, il riconoscimento che viene attribuito dall'Agenzia ONU per i rifugiati alle aziende che si sono fatte carico di progetti concreti di sostegno ai rifugiati attraverso il lavoro. Lavoro che dà dignità, come abbiamo sentito dalla voce di Elena Riva, presidente e coproprietaria di Panino Giusto, che è un'azienda milanese con più di 300 lavoratori, e fra loro ci sono anche dei rifugiati, ne abbiamo parlato, e una di queste lavoratrici, una di queste rifugiate è Precious Mbonu. Benvenuta. Grazie. Precious viene dalla Nigeria e sta in Italia da quanti anni? Sono in Italia da 5 anni. ho deciso di uscire con tutto il maltrattamento che ho vissuto con la mia con i datori di lavoro, di molestie, di sesso, e poi ho deciso di uscire, di scappare così per trovare una vita migliore. Quindi lei è stata vittima di molestie sessuali nel lavoro, esatto, in Nigeria? Sì. Che lavoro faceva? Facevo impiegata. Quindi è scappata dalla Nigeria ed è andata dove? In Libia? Questa persona che mi ha detto che c'è lavoro a Libia, ma io in realtà non sapevo che c'è questo. Libia è ancora più peggio del mio paese. Ma trattando queste donne con il sesso, anche le altre cose che non va bene, uccidono. Anche sono andata in prigione per un mese e qualche settimana. Quindi poi dalla Libia ha deciso di venire in Europa, attraverso, esatto, il mare? Sì, mi sono sbarcata a Lampedusa. È una scelta rischiosa, cioè, però ho dovuto accettare questa scelta perché non c'era niente per me. Non poteva tornare a quel punto in Nigeria, non ci ha pensato? No, cioè, la strada è proprio lunga, cioè dal mio paese, dalla Nigeria alla Libia. Nel deserto le persone muoiono con fame, con quella macchina. Se qualcuno si cade, l'autista non si ferma. E in realtà devi pagare quando arrivi in questo paese, no? Se rifiuti di pagare, hai la conseguenza vendere una persona per soldi. Precious, lei è stata venduta? Esatto. Precious, quando lei è partita con la barca per attraversare il mare e venire in Europa, lei sapeva dove sarebbe andata? Non lo sapevo. Non lo sappiamo dove arriverà la barca. Ma cioè, noi lei non aveva idea di dove sarebbe arrivata? No, non avevo idea. E poi è arrivata a Lampedusa. E che impressione, esatto, ha avuto quando è arrivata a Lampedusa? Quando sono arrivata a Lampedusa, cioè, ci hanno accolto così. Io l'ho trovato un'altra vita. Per la prima volta ho dovuto chiamare mia madre, che non avevo chiamato per quanti anni. Scusami, sono un po' emozionata. Ho chiamato mia madre e lei non stava bene, cioè, per quanti mesi non mi sentiva. Cioè. Lei ha chiamato sua mamma che non stava bene. Sì. Quanti anni aveva Precious quando è arrivata in Italia 5 anni fa? 20 anni. Quindi ha imparato l'italiano e ha iniziato a lavorare a Panino Giusto. Quando ha iniziato, sì, a lavorare lì? Ho fatto la terza media, poi nel 2018 ho mandato il mio curriculum, il progetto che si chiama Cucinare per ricominciare il Panino Giusto. Io l'ho fatto il colloquio, ho passato, ho superato, cioè. E poi abbiamo iniziato a febbraio 14 del 2018 di questo progetto. E che lavoro fa a Panino Giusto? Lavora in cucina, lavora in sala? No, lavoro in sala. Le piace il suo lavoro? Molto bene, cioè mi piace da morire. C'è una cosa che... cioè mi piace stare con la gente. Grazie Precious. Grazie mille. E in quest'ultima parte siamo con Chiara Cardoletti, responsabile UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, per l'Italia, la Santa Sede San Marino. A lei chiediamo in che cosa consiste questo progetto Welcome e come le aziende possono partecipare. Un'azienda che è interessata a partecipare al progetto Welcome deve essere chiaramente disposta a considerare l'inserzione di rifugiati nel proprio ambito lavorativo e poi fare una richiesta attraverso l'UNHCR, il nostro sito, dell'interesse di fare parte di questo programma e non ci vuole molto, è una cosa abbastanza semplice. Moltissime aziende hanno partecipato l'anno scorso con un incremento abbastanza importante, segno che un interesse c'è. Sì, devo dire che abbiamo più di 121 aziende che fanno parte di questo progetto e più di 52 cooperative, quindi c'è un grandissimo interesse e devo dire che il numero di inserzioni di rifugiati nelle aziende dal 2018 al 2019 è duplicato. Nel 2018 si parlava di 1950 inserzioni, nel 2019 di quasi 3300, quindi si è visto proprio un raddoppiare dell'interesse delle inserzioni dei rifugiati in queste aziende. Ed è molto bello, noi andiamo molto fieri di questo progetto perché effettivamente è proprio una partnership tra noi, le aziende private e rifugiati, chiaramente anche i partner che lavorano con noi su questo progetto. Lei giustamente ha detto aziende e cooperative, perché ci sono due in realtà bollini di qualità, Welcome per le aziende e WeWelcome per le cooperative, che talvolta hanno in gestione ad esempio i centri di accoglienza. Esatto, che fanno appunto un po' il passaggio tra l'identificazione della persona che può essere inserita in queste aziende e l'effettivo inserimento, quindi tutto il lavoro appunto di identificazione, di aiuto a mettere insieme il curriculum, di guidance, di supporto appunto perché la persona che viene inserita in queste aziende abbia tutto il supporto necessario per poterlo fare in maniera produttiva. Questa formazione al lavoro viene fatta da chi? Chi sostiene i costi della formazione? Allora, le formazioni al lavoro sono le aziende stesse che si prendono in carico appunto queste persone e le aiutano, fanno appunto questi training per aiutarle all'inserimento e poi considerano se la persona è adeguata per essere mantenuta nell'azienda o meno. UNHCR si è impegnata da questo punto di vista ormai da qualche anno. Qual è stata la ragione che vi ha spinto a vedere nel lavoro la chiave di volta per una delle chiavi di volta, ma sicuramente una importante volano per l'integrazione, nella nostra società? Sicuramente integrare i rifugiati è il nostro obiettivo finale e il lavoro e la formazione sono fondamentali per restituire dignità e autostima a coloro che sono stati costretti a abbandonare il proprio paese. Quindi per noi era un modo abbastanza logico di dare un'opportunità a delle persone capaci, delle persone che hanno affrontato dei momenti molto molto difficili, l'opportunità appunto di essere autosufficienti, tornare ad essere autonomi e riprendere in mano la propria vita. Welcome è in questo senso un grande successo per noi, ma devo dire anche per le aziende che sono parte di questo progetto, in quanto se ascolti parlare, a me è successo di parlare con molte di queste aziende, vedi proprio che chiaramente c'è sempre un lato umanitario, la voglia di fare qualcosa di positivo per gli altri, ma è anche a livello di business una cosa molto interessante in quanto aggiungere diversità nella workforce di queste aziende è risultato essere anche molto positivo per il business stesso. Per esempio, molte aziende parlano di come hanno imparato come un settore, una parte del settore a cui loro appunto vendono prodotti vede le cose diversamente, quindi la necessità di fare un tipo diverso di marketing su alcuni prodotti. Quindi è un po' anche un modo di crescere come business, vedere il mercato da un'altra prospettiva. Quindi in un certo senso sì, è un aiuto umanitario, ma anche una cosa che può essere molto utile alle aziende. Una cosa che mi ha stupito è che mentre alcune aziende sono fiere di aver partecipato a Welcome, di aver vinto questo premio per l'inserimento dei rifugiati, anche aziende importanti, Gucci invece che Barilla, altre aziende invece vogliono tenere un po' nascosta questa loro partecipazione. Come mai? C'è della timidezza? Oppure pensano che i consumatori non apprezzino l'inserimento dei rifugiati in azienda? Ma sai, non posso parlare per loro ovviamente perché è una scelta che ogni azienda fa. Credo che questo è stato un po' un esperimento all'inizio e chiaramente forse le aziende vogliono capire meglio come si sarebbe sviluppato. Io non credo che avere dei rifugiati che lavorano per un'azienda possa essere una cosa di immagine negativa per l'azienda. Penso che forse è stata semplicemente una cautela per capire meglio appunto come questo esperimento poteva svilupparsi nel corso dei mesi e degli anni. Grazie a Chiara Cardoletti per essere stata con noi oggi pomeriggio. Grazie a lei per averci, una buona giornata. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto di questa puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima alle 14. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.